E il signor Hale pensò a Margaret quella sera di aprile nello stesso modo strano e persistente in cui lei pensava a lui. Si era stancato andando in giro tra vecchie conoscenze e luoghi familiari di un tempo. Aveva formulato ipotesi esagerate su quello che avrebbero pensato gli amici per il fatto che avesse cambiato le proprie opinioni religiose, ma anche se alcuni di loro si fossero magari sconvolti o addolorati o indignati per il suo dissenso teorico, non appena guardarono l'uomo che avevano amato un tempo, dimenticarono i dubbi che aveva dentro, o li tennero presenti soltanto per dimostrarsi ancora più comprensivi nei suoi confronti. Non molti, infatti, conoscevano a fondo il signor Hale. Aveva frequentato una delle facoltà più piccole ed era sempre stato timido e riservato, ma quelli che in gioventù si erano curati di penetrare nella delicatezza di quei pensieri e di quei sentimenti, sepolti sotto il suo silenzio e la sua indecisione, lo accolsero nei loro cuori con quella gentilezza protettiva che avrebbero mostrato forse a una donna. E il rinnovo di questa gentilezza, dopo tanti anni e un periodo di così tanti cambiamenti, lo sconvolse molto di più di quanto avrebbe potuto fare qualche espressione sgarbata o sprezzante. «Temo che abbiamo esagerato», disse il signor Bell. State male adesso perché avete respirato per così tanto tempo l'aria di Milton. Ah, oh, sono stanco, disse il signor Hale, ma non è l'aria di Milton. Ho 55 anni e questo semplice fatto spiega da sé qualsiasi perdita di vigore. Ah, oh, sciocchezze! Io ho superato i 60 e non sento nessuna perdita di vigore né mentale né fisico. Non voglio sentirvi parlare così. 55, beh, siete ancora un giovanotto. Hale scosse il capo. No, questi ultimi anni, disse, ma dopo un minuto di pausa si raddrizzò dalla sua posizione semidistesa in una delle lussuose poltrone di Bell e disse con una sorta di tremula serietà: Bell, non pensate che se avessi potuto prevedere le conseguenze del mio dissenso religioso e delle dimissioni dalla parrocchia, no, nemmeno se avessi potuto sapere quanto lei avrebbe sofferto. Non pensate che rinnegherei quell'atto di aperta ammissione di non appartenere più alla stessa fede della Chiesa nella quale ero sacerdote, per come la vedo ora, anche se avessi potuto prevedere l'estrema crudeltà del doloroso martirio di una persona che amavo, avrei fatto esattamente lo stesso, fino ad arrivare al passo di abbandonare apertamente la Chiesa. Magari l'avrei fatto diversamente, sì, agendo in modo più saggio in tutto ciò che ho fatto poi per la mia famiglia. Tuttavia, non credo che Dio mi abbia dotato di troppa saggezza o forza, aggiunse ritornando nella posizione semidistesa di prima. Bell si soffiò forte il naso prima di rispondere, dopodiché disse: Vi ha dato la forza di fare quello che la vostra coscienza vi ha detto essere giusto. E a parer mio non abbiamo bisogno di una forza maggiore e più santa di quella. O di saggezza. Io so di non avercela. Eppure gli uomini nei loro stupidi libri mi considerano come un saggio, come con una personalità forte e indipendente, determinato e tutte quelle ipocrisie, il perfetto idiota che obbedisce alla semplice legge della sua ragione, anche se soltanto per pulirsi le scarpe sono zerbino, è più saggio e più forte di me. Gli uomini sono proprio dei creduloni. Ci fu una pausa. Il signor Hale parlò per primo a seguito dei suoi pensieri. Riguardo a Margaret. Oh, bene, parliamo di Margaret. Dicevate? Quando morirò. Sciocchezze! Penso spesso quel che ne sarà di lei. Suppongo che i Lennox le chiederanno di andare a vivere con loro. Cerco di pensare che lo faranno. Sua zia Shaw le ha voluto bene, anche se lo ha dimostrato poco, ma si dimentica di voler bene a chi non è lì con lei. Un errore molto comune. Che persone sono i Lennox? Boh, lui di bell'aspetto, eloquente, piacevole. Edith, una ragazza graziosa, dolce, un po' viziata. Margaret la ama con tutto il cuore e Edith la ricambia con tutto l'affetto che può riservarle. Bene, Hale, sapete che quella vostra ragazza ha conquistato praticamente tutto il mio cuore, ve l'ho detto in passato. Naturalmente, in quanto vostra figlia e mia figlioccia, sono sempre stato affezionato a lei ancor prima di vederla l'ultima volta, ma questa visita che vi ho fatto a Milton mi ha reso suo schiavo. Io, una vecchia vittima zelante, ho seguito il carro del vincitore, perché in realtà pare maestosa e serena come qualcuno che ha lottato e forse sta ancora lottando, e allo stesso tempo vede ben chiara la vittoria. Sì, nonostante le sue attuali preoccupazioni, quella era l'espressione sul suo viso, e quindi tutto ciò che possiedo è al suo servizio, se ne avrà bisogno, e sarà suo, che lei voglia o no. Quando morirò. Inoltre, io stesso sarò il suo paladino, anche se sono un sessantenne con la gotta. Sul serio, vecchio amico mio, vostra figlia sarà la responsabilità principale della mia vita e tutto l'aiuto che il mio ingegno o la mia saggezza o il mio cuore volenteroso possono dare sarà suo. Non voglio che parlare di lei vi agiti. Vi conosco da tanto tempo e voi qualcosa di cui preoccuparvi dovete sempre averla o non siete felice. Ma vivrete ancora parecchi anni più di me. Gli uomini esili e magri come voi, la morte la sfidano e la imbrogliano sempre. Sono quelli robusti e floridi come me che se ne vanno per primi. Se il signor Bell avesse avuto un occhio profetico, avrebbe potuto vedere la torcia completamente capovolta e lì accanto l'angelo con la faccia seria e composta fare un cenno all'amico. Quella notte il signor Hale appoggiò sul cuscino la testa che da lì non si sarebbe più mossa. Il domestico che al mattino entrò nella camera non ricevette alcuna risposta alle sue parole. Si avvicinò al letto e vide il viso sereno e in pace che giaceva, bianco e freddo, sotto l'indelebile sigillo della morte. L'aspetto era perfettamente rilassato, non c'era stata sofferenza né lotta. Il cuore doveva essersi arrestato mentre dormiva. Il signor Bell rimase impietrito per il duro colpo e si riprese soltanto quando si arrabbiò per ogni suggerimento del suo domestico. Un'inchiesta della polizia! Pah! Non penserai che l'ho avvelenato? Il dottor Forbes dice che non è altro che la naturale risoluzione di un disturbo cardiaco, povero vecchio Hale. L'avete logorato prima della sua ora, quel vostro cuore sensibile, vecchio amico mio. Come ha parlato della sua Wallis? Tra 5 minuti la mia borsa da viaggio deve essere pronta. Così ho deciso. Preparala, ti ho detto. Devo andare a Milton con il prossimo treno. Era stata preparata la valigia. La carrozza era stata chiamata, la stazione raggiunta, tutto in 20 minuti dal momento in cui aveva preso la decisione. Il treno per Londra arrivò sibilando, indietreggiò di alcuni metri e il signor Bell venne spinto dentro da una guardia spazientita. Si appoggiò sul suo sedile, cercando di capire con gli occhi chiusi come uno che ieri era vivo potesse essere oggi morto, e in poco tempo le lacrime si intrufolarono tra le ciglia brizzolate. Sentendole, aprì gli occhi svegli e assunse quell'espressione smorzata di allegria che la sua determinazione lo spingeva ad assumere. Non intendeva abbandonarsi al pianto davanti a un gruppetto di estranei, non lui. Non c'era nessun gruppetto di estranei. Soltanto una persona seduta lontano sulla stessa fila. Poco dopo Bell la scrutò per scoprire che tipo di uomo fosse quello che poteva aver osservato la sua commozione e, dietro l'ampia pagina del Times spiegato, riconobbe il signor Thornton. Thornton, siete proprio voi? Disse spostandosi rapidamente più vicino a lui. Lo salutò stringendogli la mano con un certo impeto, finché la stretta non finì per allentarsi all'improvviso, poiché la mano gli serviva per asciugarsi le lacrime. L'ultima volta che aveva visto il signor Thornton era in compagnia del suo amico Hale. Sto andando a Milton, costretto da una triste incombenza. Vado a comunicare alla figlia di Hale la notizia della sua morte improvvisa. Morte? Il signor Hale è morto? Sì. Continua a ripetermelo, Hale è morto, ma non lo rende affatto più vero. Ma Hale è morto, nonostante tutto. È andato a dormire tranquillo, così sembrava, la scorsa notte, ed era tutto freddo stamattina quando il mio domestico è andato a svegliarlo. Ma dove? Non capisco. A Oxford. È venuto a trovarmi, non tornava a Oxford da 17 anni ed è finita così. Per più di un quarto d'ora non dissero neanche una parola. Dopodiché il signor Thornton esclamò: E lei? E si fermò subito. Margaret, intendete? Eh sì, sto andando a dirglielo. Povero Hale, ieri ha pensato a lei tutta la sera, buon Dio. Era solo ieri sera e quanto infinitamente distante è adesso. Ma per amor suo, Margaret sarà come una figlia per me. Ieri sera ho detto che lo avrei fatto per il suo bene. Beh, in realtà lo farò per entrambi. Il signor Thornton fece uno o due vani tentativi di parlare prima di riuscire a trovare le parole. Che cosa ne sarà di lei? Credo che ci saranno due persone ad attenderla. Una sono io. Mi prenderei in casa un drago vivo se, assumendo un tale accompagnatore e creandomi una famiglia mia, potessi allietare la mia vecchiaia avendo una figlia come Margaret. Ma ci sono quei Lennox. Chi sono? Chiese il signor Thornton con fremente interesse. Oh, gente elegante di Londra che con ogni probabilità penserà di avere maggior diritto su di lei. Il capitano Lennox ha sposato sua cugina, la ragazza con cui è cresciuta. Brave persone, suppongo. E c'è sua zia, la signora Shaw. Potrei avere una possibilità, magari, se mi offrissi di sposare quella rispettabile signora, ma sarebbe proprio un ripiego. E poi c'è il fratello. Che fratello? Un fratello di sua zia? No, no, un Lennox. Un Lennox intelligente, il capitano è un idiota, capite? Un giovane avvocato che metterà gli occhi addosso a Margaret. So che in questi ultimi 5 anni non se l'è mai tolta dalla testa, me l'ha detto uno dei suoi amici intimi, e si è tirato indietro soltanto perché lei era senza patrimonio. Ma ora anche questo ostacolo sarà superato. E come? Chiese il signor Thornton. La sua curiosità era troppo ardente perché si rendesse conto dell'insolenza della domanda. Perché quando morirò lascerò a lei il mio denaro, e se questo Harry Lennox vale almeno la metà di lei, e se a lei piace, ebbene, magari troverò un altro modo per sposarmi e farmi una famiglia. Ho una paura tremenda di essere sedotto in un momento di distrazione da sua zia. Né Bell né Thornton erano dell'umore giusto per ridere, e così l'ironia di tutte le parole del primo passò inosservata. Il signor Bell fischiettò, senza emettere alcun suono, all'infuori di un lungo respiro sibilante. Cambiò posto, senza trovare pace né sollievo, mentre il signor Thornton stava seduto immobile, con gli occhi fissi su un unico punto nel giornale che aveva sollevato per darsi il tempo di riflettere. «Dove siete stato?» domandò il signor Bell alla fine. «A Havre, a cercare di scoprire cosa c'è dietro lo spropositato aumento del prezzo del cotone». Cotone, speculazioni e fumo, macchine ben pulite, ben oliate, operai sporchi e trasandati. Povero vecchio Hale, povero vecchio Hale, se solo poteste immaginare quale cambiamento sia stato per lui venire qui, lasciare Helston. La conoscete, la New Forest? Sì, rispose seccamente. Allora potete immaginare la differenza con Milton. In quale parte siete stato? Siete mai andato a Helston? È un pittoresco paesino come uno di quelli dell'Odenwald. Lo conoscete, Helston? L'ho visitato. Deve essere stato un vero stravolgimento lasciarlo e venire a vivere a Milton. Sollevò il giornale con aria risoluta, come se fosse determinato a non proseguire la conversazione. E il signor Bell fu ben contento di tornare alla sua precedente occupazione e di trovare il modo migliore per dare la notizia a Margaret. Era a una finestra del piano di sopra. Lo vide scendere, indovinò la verità con una intuizione fulminea. Restò in piedi al centro del salotto, come se il suo iniziale impulso a correre di sotto si fosse arrestato e allo stesso tempo, prigioniera di quello stesso pensiero, si fosse pietrificata. Era bianca e immobile. Oh, non ditemelo! L'ho capito dalla vostra faccia. Avreste mandato, non l'avreste lasciato se fosse vivo. Oh, papà! Papà! 42. Sola. Sola. Se una voce amata che a te portava del suono la dolce melodia, d'improvviso scompare, e il silenzio che tu col pianto non osi turbare, come un morbo sconosciuto ti duole intorno, quale speranza, aiuto, musica potrà un giorno cancellare quel silenzio ai tuoi sensi. Mrs. Elizabeth Barrett Browning. Il colpo era stato molto duro. Margaret cadde in uno stato di prostrazione che non si manifestò con lacrime e singhiozzi, e nemmeno trovò sollievo nelle parole. Stava distesa sul divano con gli occhi chiusi, senza parlare, se non quando qualcuno le rivolgeva la parola e poi rispondendo con sussurri. E il signor Bell era perplesso. Non aveva il coraggio di lasciarla, non osava chiederle di accompagnarlo a Oxford, secondo uno dei piani che aveva fatto durante il viaggio verso il Milton. Era fisicamente troppo provata per una fatica del genere, senza contare poi quello che avrebbe dovuto vedere. Bell era seduto davanti al fuoco, riflettendo sul da farsi. Margaret giaceva immobile, senza quasi nemmeno respirare, accanto a lui. Non l'avrebbe lasciata, neanche per la cena preparata al piano di sotto da Dixon, che, volendo essere ospitale, pur tra i singhiozzi, lo avrebbe spinto volentieri a mangiare. Gli fu portato qualcosa. Di solito era piuttosto esigente e schizzinoso e distingueva bene ogni sfumatura di sapore, ma in quel frangente il pollo alla diavola sapeva di segatura. Ne tagliò un po' a piccoli pezzettini per Margaret, condendolo bene con sale e pepe, ma quando Dixon, su sua indicazione, cercò di imboccarla, scosse fiaccamente la testa, come a dire che nello stato in cui era il cibo l'avrebbe soltanto soffocata, non nutrita. Il signor Bell fece un profondo sospiro, sollevò il suo corpo vecchio e robusto, indolenzito per il viaggio, dalla posizione comoda in cui si trovava e seguì Dixon fuori dalla stanza. Non posso lasciarla. Devo scrivere ai colleghi di Oxford perché controllino che i preparativi vengano fatti a dovere. Possono andare avanti fino a quando non arrivo io. Non può raggiungerla qui, la signora Lennox. Le scriverò per dirle che deve, la ragazza deve avere un'amica vicino, anche solo per parlare, fino a farle venire una bella crisi di pianto. Dixon stava piangendo per due. Tuttavia, dopo essersi asciugata le lacrime, e schiarita la voce, riuscì a dire al signor Bell che la signora Lennox era in avanzato stato interessante e non era nelle condizioni di affrontare un viaggio al momento. Beh, suppongo che dovremmo chiamare la signora Shaw. È tornata in Inghilterra, vero? Sì, signore, è tornata, ma non penso che vorrà lasciare la signora Lennox in un momento così delicato, disse Dixon, a cui non piaceva l'idea di avere per caso un'estranea con la quale condividere il suo ruolo esclusivo nell'assistere Margaret. Beh, sarebbe un momento delicato. Il signor Bell si contenne sul finale della frase con qualche colpetto di tosse. Non ha avuto difficoltà a essere a Venezia o a Napoli o in qualche altro paese papista durante lo scorso momento delicato che ha avuto luogo a Corfù, mi pare. E che cosa significa il momento delicato di quella donna ricca e insignificante in confronto a quella povera creatura di là, quella Margaret senza difesa, senza casa, senza amici, che giace distesa su quel divano come una statua di pietra sopra un sepolcro? Stammi a sentire, la signora Shaw verrà, fai preparare una stanza o qualsiasi cosa desideri per domani sera e io mi occuperò di farla venire. Di conseguenza, Bell scrisse una lettera che la signora Shaw dichiarò tra le lacrime essere così simile a una del suo caro generale prima di un attacco di gotta che l'avrebbe conservata come un oggetto prezioso per sempre. Se lui le avesse permesso di scegliere, pregandola e insistendo, come se un rifiuto fosse possibile, forse non sarebbe andata, per quanto autentico e sincero fosse il suo affetto per Margaret. Ci volle il comando, brusco e scortese, per farle vincere la sua vis inerzie. E per farsi vestire dalla sua cameriera dopo che quest'ultima ebbe preparato il bagaglio. Edith, tutta cappello, scialli e lacrime, uscì sulla porta mentre il capitano Lennox accompagnava la madre giù per le scale fino alla carrozza. Oh, non dimenticatelo, mamma. Margaret deve venire a vivere con noi. Sciolto andrà a Oxford mercoledì e dovete dire al signor Bell di mandargli un messaggio per fargli sapere quando dovremo aspettarvi. E se avrete bisogno di lui, sciolto, lui potrà proseguire da Oxford a Milton. Non dimenticatevi, mamma, dovete riportare qui Margaret. Edith rientrò in salotto, il signor Henry Lennox era lì che divideva le pagine di un nuovo periodico. Senza sollevare la testa, disse: Se non vi va di stare così a lungo senza sciolto, senza vostro marito, Edith, spero che mi lascerete andare a Milton ad aiutare come posso. Oh, vi ringrazio, disse Edith. Suppongo che il signor Bell farà tutto il possibile e non ci sarà bisogno di altro aiuto. Solo che non ci si aspetta tanto savoir-faire da un professore universitario. Oh, cara Margaret, tesoro, non sarebbe bello averla qui di nuovo? Eravate grandi amici voi due anni fa. Ah, davvero? Chiese con indifferenza, sembrando interessato a un passaggio del periodico. Beh, forse no, non mi ricordo, sono stata così impegnata con Sciolto. Ma non capita a proposito che se mio zio doveva morire, dovesse essere proprio adesso che siamo tornati qui e ci siamo sistemati nella vecchia casa e siamo pronti a ricevere Margaret, poverina? Che cambiamento sarà per lei da Milton? Farò mettere del cinse nuovo nella sua camera da letto e la farò sembrare nuova e splendente, così si tirerà un po' su. Con lo stesso spirito, la signora Shaw fece il viaggio verso Milton, temendo di tanto in tanto il primo incontro e chiedendosi come sarebbe stato una volta superato. Tuttavia, erano più frequenti i suoi piani su come portare via Margaret da quell'orribile posto e ricondurla alle piacevoli comodità di Harley Street. Oh Dio, disse la sua cameriera, guarda quelle ciminiere, la mia povera sorella, non credo che sarei riuscita a riposarmi a Napoli se avessi conosciuto questa situazione. Oh, sarei dovuta venire qui a portare via lei e Margaret. E ammise a se stessa di avere sempre considerato suo cognato un uomo debole, ma mai così debole come lo considerava ora, vedendo con quale posto aveva scambiato la deliziosa casa di Helston. Margaret era ancora nello stesso stato, smorta, immobile, muta, con gli occhi asciutti. Le avevano detto che sua zia Shaw stava arrivando, ma non aveva manifestato né sorpresa né piacere o dispiacere all'idea. Il signor Bell, a cui era tornato l'appetito e che apprezzava gli sforzi di Dixon per soddisfarlo, insistette invano per far assaggiare a Margaret le animelle in umido con le ostriche. Scosse il capo con la stessa calma ostinazione del giorno precedente e fu costretto a consolarsi per il suo rifiuto mangiandosele tutte lui. Tuttavia, Margaret fu la prima a sentire il rumore della carrozza che portava sua zia dalla stazione. Le vibrarono le ciglia e le sue labbra livide ripresero colore. Belle scese ad accogliere la signora Shaw e quando tornarono di sopra, Margaret era in piedi, cercando di stare in equilibrio con la testa che le girava. Nel momento in cui vide sua zia, andò verso le braccia spalancate per accoglierla e per la prima volta trovò sollievo piangendo liberamente sulla sua spalla. Le vennero in mente i ricordi del sereno ambiente familiare, degli anni di tenerezza, del legame con i genitori scomparsi, che sciolsero e intenerirono il suo cuore intorpidito in un fiume di calde lacrime. E poi quell'inspiegabile somiglianza alla sorella nell'aspetto, nella voce e nei gesti che sembravano appartenere a un'unica famiglia e che in quel momento rievocavano con violenza il pensiero della mamma. Il signor Bell uscì furtivamente dalla stanza e andò giù nello studio, dove sistemò il fuoco e cercò di distrarsi prendendo ed esaminando i vari libri. Ogni volume gli suggeriva il ricordo dell'amico scomparso. Poteva magari essere un'occupazione diversa da quella di sorvegliare Margaret, attività che lo aveva impegnato nei 2 giorni precedenti, ma i pensieri non erano cambiati. Fu lieto di sentire la voce del signor Thornton che faceva domande sulla porta. Dixon lo stava mandando via in modo poco cortese. Infatti, con l'arrivo della cameriera della signora Shaw, le tornarono alla mente le immagini dell'antico splendore della famiglia Beresford, del clan, così le piaceva definirla, dalla quale la sua giovane signora era stata estromessa e alla quale, grazie a Dio, doveva essere restituita. Queste immagini su cui stava indugiando con soddisfazione, conversando con la cameriera della signora Shaw, e nel frattempo tirando fuori con destrezza ogni circostanza e connessione riguardante il trasferimento in Harley Street, a vantaggio di Marta che stava ascoltando, rendevano Dixon propensa a trattare in modo arrogante qualsiasi abitante di Milton. Così, sebbene davanti al signor Thornton si fosse sempre sentita in qualche modo in soggezione, fu tanto brusca quanto le riuscì nel dirgli sfacciatamente che quella sera non poteva vedere nessuna delle persone che erano in casa. Fu alquanto sgradevole essere contraddetta da Belle, che aprì la porta dello studio, esclamando a gran voce: Thornton, siete voi? Entrate dentro qualche minuto, vorrei parlarvi. Così Thornton andò nello studio e Dixon dovette ritirarsi in cucina e recuperare l'amor proprio con un prodigioso racconto del tiro a 6 cavalli che aveva Sir John Beresford quando era un importante sceriffo. Non so che cosa volevo dirvi, dopo tutto, è solo che è piuttosto desolante stare seduto in una stanza dove tutto ti parla di un amico scomparso, ma Margaret e sua zia devono avere il salotto tutto per loro. È arrivata la signora, sua zia? chiese il signor Thornton. Sei arrivata? Ah, certo, con cameriere e tutto quanto. C'era da pensare che magari sarebbe potuta venire da sola in un simile momento. E adesso me ne dovrò andare a cercare la strada per il Clarendon. Non dovete andare al Clarendon. Abbiamo 5 o 6 camere vuote a casa. Ben areate? Beh, penso che dobbiate contare su mia madre per questo. Allora corro di sopra a dare la buonanotte a quella povera ragazza, a salutare sua zia e vengo con voi direttamente. Bell si trattenne un bel po' di sopra. Thornton iniziò a pensare che indugiasse troppo perché aveva da sbrigare degli affari importanti e a stento era riuscito a trovare il tempo di correre a Crampton per domandare delle condizioni della signorina Hale. Una volta che ebbero iniziato a camminare, il signor Bell disse: Sono stato trattenuto da quelle signore in salotto. La signora Shaw non vede l'ora di tornare a casa, per la figlia, dice, e vuole che Margaret vada subito via con lei. Ma in questo momento non è nelle condizioni di viaggiare più di quanto lo sia io di volare. Inoltre dice giustamente Margaret, ci sono degli amici che deve vedere e parecchie persone che deve salutare. Sua zia però l'ha angustiata con vecchie pretese, domandandole se si fosse dimenticata dei vecchi amici e così lei, scoppiando a piangere a dirotto, ha detto che sarebbe stata contenta di lasciare un luogo in cui aveva tanto sofferto e io devo rientrare a Oxford e non so da quale parte far pendere la bilancia. Fece una pausa, come se avesse posto una domanda, ma non ricevette nessuna risposta dal suo amico, mentre l'eco dei suoi pensieri continuava a ripetere: in cui aveva tanto sofferto. Ahimè, e questo era il modo in cui sarebbero stati ricordati quei 18 mesi a Milton. Per lui, così ineffabilmente preziosi in tutta la loro amarezza, che tuttavia valeva la dolcezza della vita che restava. Né la perdita del padre né la perdita della madre, per quanto amata da Thornton, avrebbe potuto contaminare il ricordo delle settimane, dei giorni, delle ore, di quando una camminata di 2 miglia, di cui aveva amato ogni passo, poiché lo portava sempre più vicino a lei, lo conduceva alla sua dolce presenza. Ogni passo di quella camminata era fecondo, perché quando tornava indietro aveva ogni volta qualche suo nuovo atteggiamento, qualche piacevole spigolosità del suo carattere a cui pensare. Sì, qualsiasi cosa gli fosse successa, esterna al suo rapporto con lei, non avrebbe mai potuto parlare di quel periodo, quando poteva vederla ogni giorno, quando l'aveva, per così dire, a portata di mano, come un periodo di sofferenza. Era stato un periodo felice per lui, seppur con tutti i suoi dolori e le sue angustie, se paragonato alla miseria che si insinuava nel futuro, riducendolo a una sordida realtà e a una vita in cui non sembravano aleggiare più né speranze né timori.